10, c'è qualcuno? Attento 10. Fammi la base di voce. Hola, attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Hola? Attention please. Hey, hey, please. Hey, buonasera. Good evening. Hai visto che propagazione, ne ha voluto. Ehi, raga di qua. Scappa, è bella sta lì. Cosa sei combinenti? Ehi, mi, ero con Riccardo, ma non mi sento bene, deve essere solo tutto influenzato, mamma mia. Non mi sento bene per niente. Papà, sei appiccicato pure a me, quando è la scorsa settimana? La tosse, la tosse, lui. E così sono io, la tosse, come sono male, mamma mia. Io ho preso solo tachipirina e latte col miele, boh. Brecco, buonasera. Mi c'è un break, il miele io non ne posso pigliare. Tu riusciresti a condividere? Non ha giubilato. Ma che il miele non è come lo zucchero, non fa male. È roba naturale. E sempre nel sangue ti va. Ma io l'ho preso il miele, non mi ha fatto nulla. Avanti Gavino, buonasera. Buonasera Gianni e buonasera Natalino. Buonasera Gianni e buonasera Natalino, ben sentiti tutti e due. È vero, è vero, è vero Natalino, il miele è naturale, non fa niente. Non dà, sì, un po' la fa salire la glicemia, ma non dà il picco, non dà il picco glicemico come lo zucchero. Vuol dire mi fare un po' di latte caldo col miele, là. Riprendete voi, io rimango in ascolto, che vado a fare un po' di latte col miele, che sono un po' più male a vivo. Latte e miele Ambrosoli, e se no ti mani 3 o 4 bassi e si è a posto. Avanti Gavi. Ciao Gio. Sì, no, il miele non dà picchi glicemici. Vabbè, a me me l'ha portato un apicoltore che conosciamo, capito? Ce l'ha portato 2 barattoli, ce l'ha venduti. Questo è miele proprio fatto dall'apicoltore, senza conservanti, senza nulla. Positivo, positivo già, sì. E anch'io lo prendo a volte, quando è, guarda, mi trovo bene. Quello di castagno a me mi danno. A me mi danno quello di arancio ed è un bel buono. Quello di castagno è buono, però mi piace molto quello di castagno, molto quello di castagno piace a me. E allora, come ti arrivo già? Come sono? Adesso vai bene di radio. Va bene, è come segnale, con picchi positivi o negativi, guarda un po', ola, e guarda un pochino questi picchetti. Sei fermo qua, no, sei né negativo né positivo, sei fermo. Ok, quanto? 9? 9-10, dai, perché questo qui è il rimizzo, è quello del 3009, che dà sempre 2 dB in meno. Positivo, dai, tutto positivo. Oggi sono tutto giorno a casa e non ho fatto niente, mi ho fatto la radio e del resto non ho fatto niente perché non avevo voluto fare niente. Fuori sono uscito poco e nulla, non ho detto basta, oggi mi sono riposato. Hai fatto bene, invece c'avevo gente a pranzo e non mi sono riposato nulla e mi sto rilassando adesso. Sì. No, io qua, io la domenica, addirittura la domenica, io non voglio vedere nessuno, non voglio sapere niente di nessuno, perché voglio stare per gli affari miei. Lo so. Però io ho un nipote che purtroppo tutti e 2 i genitori li sono morti e io li faccio da genitore, capito? Viene sempre la domenica e poi c'era mio figlio, eccetera, quindi siamo stati un po' in compagnia. Sì, no, vabbè, la famiglia sì, ma sono qui la domenica, organizzano a casa con gli amici, con le cose, no, non voglio fare qualcosa, freno alle 11, esco con la famiglia, vado, me ne vado a Udine, me ne vado a Sant'Oloro, me ne vado a Cagliari, me ne vado a Luzzano e mangio fuori, vado a vedermi qualcosa di natura, dai, a visitare qualche posto e verso le 5 metto in moto e me ne torno a casa, in modo che alle 7 e mezzo sono a casa ed è tranquillo. Quando voglio fare qualcosa, perché altrimenti se si vuole organizzare tutti fuori, tutti a pranzo fuori, in una pizzeria o qualcosa, perché poi a casa l'unico cosa succede? Casino, cucinare, io farò degli amici, la famiglia no, la famiglia no perché è diverso, però amici queste cose qua non le voglio neanche sapere. Bene, rimbruttare tutto e dopo a cavolo gli tocca lavare tutto, lo so che tutto. È per quello, hai capito. E vi stancate di più, invece la domenica è fatta per casa, no, ma loro già sono tranquilli, sono ragazzi che danno una mano, apparecchiano, fanno, capito? Ci aiutano, però io siccome sono in queste condizioni, capito, più di tanto in piedi non posso stare, mi stanco subito e ho lavorato, cucinato, fatto, quindi un po' mi sono stancato, là. Sì, ebbè, cioè non è poco quello che hai fatto, non è poco quello che l'intervento che hai fatto tu già, quindi ci credo. Niente, poi stanotte avevo tutta la notte la glicemia alta, quindi stamattina mi sono svegliato, però se non ho capito il motivo, però avevo la glicemia quasi a 50 tutta la notte, quindi stamattina ero un po' mezzo cadavere. Aspetta che c'è mia figlia che sta facendo la renda, la faccio scendere dal seggiolino. Attenzione sul 10 se c'è qualcuno. Ci sono dei filtri, vedi in basso, quelle sono. Chi è là? Donò, darei un'istruzione. Sì, Gianni. Eia. Stavo dicendo una cosa poco fa, ho detto che ieri notte avevo la glicemia 113 prima di andare a letto. Mi ha detto vabbè, mi faccio meno insulina e ho fatto la metà di quella che facevo, tanto era bassa. Ero tutta la notte che andavo in bagno e bevevo, stamattina mi sono alzato e ce l'avevo 209, non capisco come ho già fatto a alzare senza mangiare nulla. Lo so cos'è già, io a volte me ne accorgo che è in base a quello che mangi durante il giorno, no? E sfoga la notte, quindi io ne faccio sempre dalle 26 alle 30 unità di quella lenta. E a volte mi accorgo che me la faccio male e non mi fa effetto, capito? Mi faccio la puntura male e non mi fa effetto, quindi devo stare tutto il giorno a regime. Mentre quando fa effetto va a calare. Se per esempio un'ipotesi ce l'ho durante il giorno, ho mangiato tranquillo e magari la notte me la porto a 150, la faccio 6 a 150 e poi mi faccio 28 unità di Lantus e la mattina mi sveglio che a 110, 95, 100, però se sgarro durante il giorno poi la notte è un casotto. Perché io dico, come ne faccio tanta, ne faccio un po' la notte, mi dice è bassa, ma non è così. Ho buttato questo particolare. Aspettate, mia figlia si è bevuto il latte e ho voluto la roba. Scusa, già va così, già lo sai meglio di me. No, ma in tutto il giorno c'avevo 140, 152, poi l'ultima che ho misurato, te l'ho detto, era 113, ne faccio la metà perché sennò mi sta passando. E poi la metà che era trovata a 200 e No, è vero, io a volte, io stanotte ero così, non lo so. un casino, è un casino. E ci conviviamo, capisci? Sì, sì, sì, però da fastidio, cioè da fastidio, non capisci i motivi di questi. Non sono picchi, è una cosa magari una luna combattabile che diciamo è meglio del picco, però non riesci a capire i motivi, capito già. Ehi, è ballerina, capito? È ballerina. Sono sbalzi notturni questi qua, perché non è possibile. Probabilmente è come si accumulano gli zuccheri la notte, come dici tu, praticamente non riesce a smaltire il pancreas, non riesce a mettere su una sufficiente per smaltire il sangue. Vabbè, comunque, lo chiederò comunque anche al dottore, perché di questa storia. Sì, sì, te lo dirà anche lui, fai più unità della lenta. Già, ti sento più basso di poco fa, ma che mi ha trovato un po' pure c'è il microfono più lontano. No, il microfono allontanato, così bene va. Benissimo, benissimo, aspetta che vuoi succedere a mia figlia. Calcola che sto uscendo con 5 watt io e sto uscendo con il 3009. Anch'io sto uscendo col 3009 già. Sto uscendo col 3009 e l'MD4, sono senza mixer. Il 3009 l'MD4 è fatta la modifica al microfono, il porticellatore di resistenza, dai. Rapido un po' più amplificazione. Ma tu lo sai quando sto uscendo io di radio? Tu lo sai con quanta radio sto uscendo io? L'ho portato, e se non ci credi, vieni a casa, sali su un terrazzo, metti lo strumento e guardi con quanti watt sto uscendo. In genere io questa radio qua la uso con 8 watt, con 8 watt. La radio adesso di portante bianca ha 2 watt, 2 watt e mi sta dando dei picchi positivi, infatti poi ho detto controllami i picchi, perché mi sta dando dei picchi positivi allucinanti, mi sta dando dei picchi positivi a 8 watt, sì. E niente. Sono così. Va bene con quel microfono, esce bene, esce molto bene. Adesso su Messenger ti mando la fotografia del microfono che mi ho costruito, che mi ho modificato. Sono sempre usciuto, il 24 è usciuto, ho messo un'asta flessibile, diciamo un'asta di cassa di batteria acustica, quindi te lo mando, ti mando la foto adesso su Messenger. Adesso con lo sciurci? Positivo, sono con lo sciur adesso io. Ah, avevo capito l'MB+4. L'MB+4 con lo sciur. L'MB+4 con lo sciur. Hai il telefono c'è vicino? Sì, ce l'ho. Adesso ti mando la foto. Cosa ho fatto? Hai fatto un incrocio, ah? Mi già, ti ho mandato la foto. Sì. È bel lavoro, capito? Hai visto che bello è riuscito? Ah già. Ehi, io lo sciur ce l'ho perché noi cantiamo, capito? Lo usiamo per cantare. Però costano un po' di soldi, mi pare avevo pagato 110-120 euro, una cosa del genere. Sì, 120 euro l'uno, l'SM58. Io ho anche l'SM57, quello che più o meno si usa per le voci femminili, dai, anche per le voci maschili, però quando c'è tonalità molto meglio basse, mi segui. Questo qua è l'SM58. Adesso cambio il microfono e metto un altro, metto un sound station e vedi un po' se cambia qualcosa. Ok? Ah, sono anche intercambiabili. Certo, stacchi il Canon e provi tutti i microfoni che vuoi qua, tutti i microfoni del mondo provi con questo. È per quello che l'ho fatto, perché io ho tantissimi microfoni, io ho degli AKG, ho dei Sennheiser, degli Shure, ne ho tanti, quindi mi diverto così a provare la tonalità, mi segui? Ho capito. Questo qui è una tonalità meglio alta, è buono. Non lo so, quello che ho regalato a Elena per cantare, per Natale, ho regalato a te, va molto bene, ho più si sa dai vecchi tempi già che si conosce. Anche Emanuela, mia figlia, lo canta a serata e cosa, lo usa lo sciuto. Sì, sì, sì, sì, sì, già. Secondo me ecco, è anche un diversivo questo qua, perché hai sempre da provare roba nuova. Poi puoi fare anche le comparazioni con i microfoni da 10 euro, mi segui? Perché a volte vai con questi apparati qua, il microfono a 10 euro, così sempre per karaoke, magari vanno anche meglio. Mi segui per le tonalità di voci. Qua una volta ne aveva provato uno Roberto, mi pare che l'avesse comprato dai cinesi e andava benissimo, sentiva molto bene. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, già. Vanno bene, vanno bene. Dove le MP4 gli smonti il suo braccio dove c'ha la capsula, perché è smontabile, hai capito? Quello quando tu apri il coso dentro gli smonti, c'hai un mito, gli togli il braccio e gli stacchi i fili, però devi mettere anche la terra, devi collegare anche la terra. E poi ti compri un braccio così, costa 5 euro. Se ti puoi divertire a fare quello che vuoi, fai la modifica, perché logicamente devi fare la modifica, altrimenti questo microfono di preamplificazione fa un po' schifo. Però adesso ce l'ho alla settima attacca. Cioè la settima attacca e niente, con questi microfoni va bene perché non sono tanto espansivi come, non prendono tutto quello che c'è nell'ambiente. Le dà una bella amplificazione, senza ombra di dubbio. Se deve provare altri, prova, intanto non c'è nessuno. Sì. Ma vabbè, va. Adesso provo l'SM57 che rimane tipo un sigaro, adesso lo metto, guarda. Allora già, questo è l'SM57, questo è l'SM57, guarda, ti mando la foto. Va bene anche questo, a meno bassi, però è buono anche questo. Ti ho mandato la foto sul messenger, guarda il microfono come è fatto, questo è più direttivo, con questo qua devi stare proprio davanti alla capsula per rendere bene. Sì, è vero, questo te l'ho detto, aveva le tonalità molto alte, sulla medio alta va, taglia molto i 100 Hz questo microfono. Ciao Gavino, ciao Gianni, è il mio microfono come esce. Ciao Giulio, buonasera, esce bene, sempre con poche tonalità basse, ma noi abbiamo questo tipo di voce, quindi così ce la teniamo giù. Beh, lo credo, vorrei vedere come fai a cambiarla, ci mancherebbe, ma comunque considerando anche la potenza della radio, solo 2 watt, per cui non si può pretendere più di tanto già. Va benissimo, la tonalità è quella tua, non si può pretendere di più, va bene. Gabino, ottimo, ottimo anche il microfono, hai fatto un bel lavoro, dai, ti puoi destreggiare adesso. Buonasera Giulio, ben sentito dalle mie parti, buonasera Giulio, come va? Ciao Gabino, va bene, grazie a Dio va bene, e tu come va per te? Oggi giornata casalinga e facendo... Ho capito, io adesso fra un paio di minuti esco, per cui stavo guardando un po' la televisione, ma adesso faccio un giretto e poi vedremo come continuare la serata. E io mi, oggi Salvatore tutta quella roba lì, però dai, ci abbiamo passato la serata, oggi non devo fare niente, mi sono dedicato alla passione, alle mie passioni oggi. Va bene Giulio, pensavo che cosa messo per 69, quello che ho fatto sentire l'altra volta. Sì, sempre quello, io ho quello e basta, no. Non ne ho altri, per cui va bene così, mi accontento Gavi. Prima ne avevo tanti, ma me ne sono disfatto di tutti. 344. Ciao, quello che ho sentito l'altra volta, mi chiedo che questo supercar che addirittura oggi mi ha abbassato anche il VAT, non lo sto usando con la Grazioli, lo sto usando con una con la Sirio, con la GPE, con la GPE, sì, la GPE, con la 5 ottavi, non so mica se GPE o GPS, con la 5 ottavi, quindi non lo sto neanche usando con la Grazioli e l'ho portato a 2 VAT, e a 2 VAT di Corrado Bianca. Sì. No, io sto usando la Game Master come antenna, niente di particolare. Quel giorno che c'era quel ventaccio a 100 km orari non è successo niente, per cui diversamente a Gianni invece gliel'aveva aspettata, ma lui è più in alto, per cui è diverso il discorso che faccio io, perché io ce l'ho molto bassa. Sì Gianni, quello è messo da parte già da tempo, già da un anno non l'ho più usato, per cui non mi interessa, insomma, ecco. Cioè ti sei stufato? Sì, mi sono stufato, l'ho messo da parte, è una cosa ingombrante, non mi interessa più di tanto, per cui va bene così Gianni, mi sento ugualmente, con solo 2 watt e sono contento lo stesso. Poi io, tu come avrai notato, ci sto entrando poco e niente, per cui mi sono un po' raffreddato, nel senso che non ho più voglia di una volta, ecco, tutto lì. Ma è sempre in buono stato, sì. Sì, sempre perfetto, certo. Magari qualche volta l'accendo per farlo scaldare, ma niente di più. Poi 10 minuti, un quarto d'ora massimo e poi lo chiudo direttamente e lo rimetto dove è già da un anno. Non ti diverte manco più ascoltare sui 7000, sui 40.000, eccetera, eccetera? Sì, qualche volta lo faccio, però ho dei limiti, perché con la Game Master non ho una grande ricezione, a differenza dell'antenna, la Turbo che avevo prima, che ce l'ho sempre, è smontata, messa in un angolo, ce l'ho sempre. Con quella ricevevo moltissimo, molto bene, segnali fortissimi, 9, 10, mentre invece con la Game Master il segnale di 9-10 magari lo ricevo, che so io, 4-5-6, non di più. Va bene, facciamo girare per Gavino. Vai Gavì, parlando di microfono per cantare, io ne ho uno che costa 600 euro Gianni, e poi ne ho anche altri, insomma in tutto ne ho 4-5 microfoni per cantare. Cosa hai fatto? Un abbinamento di quelli hai messo, Gavì? Sì, positivo. Meccanica dell'MDP4, qui ho aggiunto il braccio a molla per portare dalla cassa della batteria. È uno sciuro, io lo stesso ne ho tanti, ho usato questi qua che ho più vecchi, io. E giù io ho 4 microfoni, vengono 12.000 euro. 4 microfoni vengono 12.000 euro dentro un rack. Sono dei radio professionali e vengono 12.000 euro. Acquistati in giugno 2021. E niente, gli ho fatto la modifica al pubblicello e sul microfono, a questo MDP4, e sto usando un SM58, un classico SM58 per voci. Cosa avevi tu giù? Un 440 come radio? Sì, ma è da parte, non lo uso, capisci? Non lo uso, va via, assolutamente. Ormai mi sono stabilito e stabilizzato con questo tipo di baracchino, per cui mi va bene così. 2 watt e niente più, tutto lì, va via. Stavo dicendo, no, tu quei microfoni li usi su un mixer oppure di volta in volta lo cambi per la radio? No, lo cambio di volta in volta. Gli ho tolto un braccio originale dall'MDP4 e l'ho messo in braccio, a molla, quelli regolabili, quelli a molla, quelli flessibili. Ho allungato l'XLR da dentro, a furgo, ho messo un capo a tre poli, un capo capo di segnale a tre fori e cambio il microfono quando voglio. Posso provare tutti i tipi di microfono in seguito. Ok, sì, beh, certo che sì, è ovvio, sì, no, ma io in passato ho qualche esperimento così l'avevo fatto addirittura col Cantatù, se ti puoi immaginare che trasmettevo e ascoltavo direttamente dal Cantatù, che ce l'ho sempre, è una cassa alta, tu immaginati un comodino più o meno, ecco, è un Cantatù di quella misura più o meno, di quelle dimensioni, posso inserire come cuffia, lo posso inserire nel baracchino, ascoltare allo stesso tempo con una modifica che allora a quel tempo avevo fatto con uno di quei microfoni per cantare, trasmettevo direttamente. Sì Giulio, io ieri sera lo stavo provando col mixer, un mixerino piccolino che ci avevo buttato di lì, ma da bene, ho detto stasera mi diverto un po', però mi sono accorto che aveva problemi di... siccome ha preso fuori polvere perché c'è un contatto, aveva problemi di... mi faceva un diaframma, non riuscivo più a eliminarlo. Poi ho attaccato un Soundcraft, un mixer digitale da rack, con quello non lo faceva, però non mi sembra il caso di lasciare un mixer così attaccato alla radio. Sì, poi tanto tempo fa lo stesso avevo un amplificatore, sempre di quelli per cantare, che era, non mi ricordo quanti watt, ma comunque penso che fosse intorno ai 70-80 watt, e non era mio, era di mio fratello, che lui lo utilizzava per cantare, e l'ho usato anche per trasmettere, ma sto parlando di diversi anni fa, almeno 10-15 anni fa, più o meno. E andava a meraviglia, ma sono tutti esperimenti che uno prova e fa, però alla fin fine poi ritorni al naturale così con un baracchino a 2 watt e niente di più, o Gavi. Va bene, facciamo riprendere a Gianni, vai Gianni. Già sono esperimenti belli, dai. Poi Gavi non c'ha un tipo di voce bella grossa e quindi riesce bene con tutti quanti i microfoni. Sì, capino, una timbrica meravigliosa, veramente bella, per cui non ha problemi. Va bene, Gavi, dai. Sì, comunque mi stai arrivando intorno al Santiago 9, una cosa del genere. Anche tu hai detto che stai usando 8 watt, poc'anzi, però io ti sto dando un segnale digitale, non analogico, per cui sai benissimo che il segnale digitale lascia il tempo che trova, Gavi. Io infatti ho regolato questo apparecchio qua, l'ho aperto poco fa, gli ho portato un primerino, ho messo il wattmetro e gli ho portato 2 watt di portante bianca, 2 watt di portante bianca, modulati questo superstar, mi sono accorto che più abbassi di trimmer e più picchi positivi a 8 watt, là. Cioè era 4 watt, era originale 4-5 watt, rimaneva 5 watt, dava un picco positivo a 6. Abbassata la portanza, abbassato diciamo il primerino a 2 watt, 1,5 watt, cioè picchi a 8, picchi positivi a 8, bello, infatti l'ho lasciato così, l'ho lasciato così, ho detto non lo tocco perché a me interessa più il picco positivo che la continuità diciamo a 6 watt, il picco positivo è meglio, il picco positivo secondo mio parere è meglio. Sì, beh certo, diciamo che la positività del microfono, poi di tutto sommato anche quello si trasformano in watt, qualche watt in più rispetto a quello portante bianca e se va là. Bene, dai, riprendi già, ancora un passaggio poi chiudo, dai, devo uscire. Sì, aspetta che hanno messo una portante. Avanti, chi è che vuole entrare? C'era una portante, già. Aspetta che hanno messo una portante. Avanti, chi è che vuole entrare? C'è stato un accavallamento di portante. Niente già, non lo so. Sì, quando stavi parlando hanno messo la portante. Si è passato ugualmente, però con un po' di distorsione, chiaramente. Va bene, tutti. Andava bene, Gavino, riprendi. Allora, adesso non posso mettere il portante. Vabbè, dai ragazzi, io vi ringrazio per la chiacchieratina, devo uscire, ci sentiamo, dai. Ciao Gianni, grazie per la chiacchierata, spero che tu sia bene, che stia migliorando sempre, questo è importante. Ciao Capino, salutoni anche a te e ci sentiamo alle prossime, dai. Io ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo definitivamente. Riprendi pure Capino per me dopo QRT. Ciao Giulio, è sempre un piacere quando entri, dai, è sempre passare, dai, scambiare quattro chiacchiere, fa sempre piacere giù. Dai, riprendi, entra più spesso e noi la sera siamo qua, io vabbè non è che rientro, che entro sempre, però un giorno sì, un giorno non riesco a entrare, anche verso le 7, 7:30. E la domenica sì, entra che ci fa piacere Giulio, entra che ci fa piacere, che sei un'ottima persona, dai, fatela buona e buona serata, riprendi Gianni per Giulio. Ciao Giulio, dai, buona passeggiata, buon frutto. Comunque già sto migliorando, piano piano mi sto riprendendo. Avanti, Gavino, di nuovo. Oh, scusa Gavino, questo mi fa piacere già, che tu ti stia riprendendo e speriamo che ti riprendi definitivamente al più presto possibile. Ok, vabbè, anch'io di tanto in tanto devo fare controlli, anzi ne devo fare anche uno domani, per la verità. Ciao, grazie ancora ragazzi, ci sentiamo, riprendi Gianni. Ehi, allora, anch'io domani c'ho la lastra, avanti Gavino. È positivo. Oioia. Domani controllo già. Domani devo fare la lastra al Conti, poi dopodomani c'ho il controllo all'ospedale al Policlinico. È positivo, ma se ti stai riprendendo a frutti di vai falle. Io adesso dovrò prenotarmi queste visite di agotologica di nuovo per i controlli. Devo prendere la. Devo chiamare il CUP e prendermi l'appuntamento per farle tutte. Perché sono un anno senza farne, capito? Ah, c'era tutta la tirintunella, oioi. Già mi piace poco pure quando mi ha tutte quelle visite, io le ho fatte da poco, diciamo a fine anno, da. Adesso a febbraio devo andare anch'io. Sì, no, ma io le faccio una volta all'anno, dico una volta ogni 6 mesi, ma le faccio una volta all'anno. Io ogni giorno mi controllo la pressione, già, e poi già siamo controllati, cioè a me ogni 6 mesi a stare è un casino sia psicologicamente che per lavoro, mi segni. Lo so, perché sono tanti esami, sono tanti elettrocardiogramma, non so tutta la tirintunella, la conosco. E anche l'eco doppio ti ha fatto fare. Sì, eco doppio e color doppio. Vabbè. Ma tu chi c'hai come medico? Dottoressa Cungiu. Sempre Arcun, a Rizzi. Yes, Arrizzedo, quindi mi ricoverò già anch'io. Non ci sono più, gli ammalati, ui. Ma forse qualcuno è rimasto, ma non più di tanto. E io no, io ci ho freso. Senti, quando entri in quell'ospedale ti viene la malinconia, sa proprio di malinconio. Di cosa antica, dal senso di roba bussoletta. Ci sono i fantasmi psicopatici. Sì, qualcuno ci dovrebbe essere, perché una volta il nipote di questo amico è andato a fare una partita lì a Rizzini, una partita di calcio, e ho visto che ci sono ancora gli infermieri lì, c'è qualcuno ancora ricoverato. Senza camicia di forza siamo, Oioia. E quindi a Benvina come sono messo, non è cala da Giulio, no? Cioè un pieno mi fa 2 giorni, cioè 121 mi fa 2 giorni. Non so, capito. Un casino per chi viaggia con i mesi, è un casino. Non dillo a Giorgia Meloni che doveva togliere le accise, poi ha rigirato tutta la situazione, ha detto che servivano per altre cose, quei soldi, per le bollette, per questo, per l'altro, bumba. Ci ho fatto mille scuse, prima ha detto che le toglieva le accise e poi non ha cavato nulla. Tutti bo e da voi sto peggio di là. Ma perché le schede, perché bisogna bruciarle le schede elettorali, bisogna bruciarle, ma bruciarle veramente, andare in comune, andare e prendere e metterle a fuoco, chiamate al comune, dice denuncia, mi dice vabbè, pazienza, intanto la brucio fuori. Io quando ho fatto il segretario all'Ursigio, in un'urna abbiamo trovato due schede elettorali, una che c'aveva un omino che stava pisciando sulla fiammella dell'MSI, ancora c'era l'MSI, e l'altro ci hanno messo 5 lire e ci hanno scritto mangiatevi anche questi. C'hanno ragione. Gianni, scusami un attimino che devo guardare mia figlia. Qua sono. C'è una compagna che è salita la mia suocera a dare una mano e c'ho la bambina, capito? Quindi ogni tanto devo mollare perché sta giocando e devo controllarla. Non ti preoccupare, prima dare priorità a tua figlia, non c'è problema. Quando ti devi assentare ti assenti, dai un'occhiata ogni tanto. Sì, mi ce l'ho adesso qua in grembo. Uiuia. Cazzo, cioè, dal 27 ci sono giorni che c'è un po' di gente, giorni dove non c'è nessuno, giorni che... Strana. Gabri, è così. Ci sono i giorni che ieri, per dire, c'era un po' di gente, c'era una folla proprio. Sì. E vabbè, dipende... Le persone già ci sono. Magari, non so, uno che adesso c'è un pigno, fa quello, quell'altro, non è che non vuole entrare, ma uno magari... Vedi, uno si mette a fare anche il rider, ma l'ascolto, magari secondo cosa sta facendo gli viene male anche stare al microfono, mi segui? Certo, c'è gente a casa, magari, la domenica lo sai com'è, magari si avvicina gente, cose. È un po' tutti gli impegni, là. No, io la verità, dopo che sono andato via loro, ero un bel stanco, però ho detto vabbè mi sdraio e mi accendo le radio, e per quello che le ho messe qua vicino al letto, perché mi fanno comodo, mi posso sdraiare quando voglio e ce le ho sempre vicino. Sì, no, io ce l'ho il tricolice, appena avevo ripensato tutto, ce l'avevo in garage, però stare in garage per non provare il cazzo perché ero lontano da loro, quindi mi ho fatto tutto ordinato qua, mi sono andato a foto, anche ho fatto tutto ordinato qua in cameretta di mia figlia. E ho tutto qua così posso stare dentro, cioè rimango dentro casa e logicamente come gli ho detto piazzale, ma metti le ordinate, piazzale ma metti le ordinate, non fare casino, infatti già ho ordinato tutto, mi fa stato bene. Adesso quando tua figlia cresce ti sbatte fuori. Vabbè, non dire che me le piacerò in quel disimpegno, e farò la calata dalla parte proprio dalla parte opposta della casa e me le piacerò in disimpegno. E vabbè, ognuno si deve adeguare, dai, ognuno si deve adeguare. Lo so. Diciamo che io l'ho messo qua in camera da letto proprio perché quando tornavo da lavoro ero sempre stanco, cribbato, tu lo sai, il lavoro che io facevo era pesante, quindi mi sdraiavo, me l'accendevo tranquillo e mi mettevo a modulare. Diversamente non avrei avuto voglia. Infatti no, devi trovare anche un punto dove sia il tuo agio e rifiuti, ti rilassi, perché se inizia a essere un lavoro che devi prendere, andare per forza lì, per fare la radio, devi entrare dentro, quindi per me il garage era scomodissimo e mi iniziava a dare un po' di fastidio, quindi ho detto così rimango dentro casa e ciccia, e facciamo così. Sì, è vero, anche un po' comodo la radio, così entri più volentieri. Poi in garage magari c'è umidità, c'è in campagna, capito? È meglio dentro casa, dai. Sì, ma vabbè, in garage umidità già non ne ho, faccio, diciamo, una parte dell'attrezzatura buona, io la tengo qua a casa, non la tengo dall'altra parte. La terminerà già fino a casa. No vabbè, è tutto quanto isolato, tutto fatto bene, c'è un caldo in garage, diciamo, si sta bene. Però mi rompeva le scatole prendere e fare lontano da loro per parlare alla radio, mi sembra, quindi, anche se sono una camera a parte, ma sono sempre dentro casa. Vabbè, infatti, te l'ho detto anche io quello lì. Uno perché ho avuto già dei riscontri, per quello te l'ho detto. Sì. E quindi già, tu sei in pensione, ora sei gourmet, devo mandare l'asilo, guida. E ne ho di cose da fare, Gavi, ne ho di cose da fare. Fare spesa e questo e quell'altro, andare negli uffici, correre a batti, correre all'altra, altro che non c'è nulla da fare. Cioè, sto facendo piacere di quando lavoravo. E perché quando lavoravi lo faceva tutto tra lui e tu eri all'albero logicamente. Però adesso però è vero, cioè tutti quelli che vanno in pensione alla fine dicono faccio di più adesso che quando lavoravo. Perché avevi meno responsabilità, non ti accorgi meno delle cose di casa, capito? Poi Gavi, adesso sanno tutti che sono in pensione, chi mi chiede una cosa, chi mi chiede l'altra, mi chiama mio figlio, mi accompagna qua, mia figlia dall'altra parte, insomma. L'altro giorno sono stato per mia figlia, già lo sai, l'ho accompagnata lì dalla parrucchiera, sono stato sino alle 10 aspettando che uscisse. Eravamo assieme in radio già, eravamo assieme, non ti ricordi? Ehi, ma poi tu hai chiuso verso mezzogiorno e mezzo e poi sono andato proprio, mi sono spostato da lì, sono andato proprio a... mi sono fermato lì e ho detto ma a un certo punto mi stava venendo questa tremarella, cioè avevo la spesa fatta, avevo preso un'arancia, me l'ho sbucciata e mi ero giunto, c'erano i cassonetti, ci ho buttato la buccia, avevo mangiato un arancio e mi sono risollevato perché mi sentivo il buco nel mondo. Sì, già, sicuramente non è la luce più bassa. Guarda che a volte ti sta mancando la modulazione. Come premo male, Gavi, mi manca la modulazione quando premo male, adesso c'è. Sì, ma che mica non ho usato perché già il palmare. Sì, un palmare normale, dai, un palmare fatto da me, capo sulla di un microfono, capo di un altro, insomma, fate un po', ma è bellino il microfono, non si vede, è fatto da me. E gli ho messo il capo di quello morbido, di quello che si allunga un bel. È una capo sulla buona e poi ho fatto il collegamento, tutto lì. Ho una capsula io che dovrò trovare un microfono per mettergliela, è fenomenale, è una capsula di una di un microfono tipo CB, tipo palmare, però è, la verità non so neanche di cosa sia, l'avevo trovata all'Ecocentro, questo microfono, c'ha regolazioni di tutto, non lo so se è un microfono di megafono di quelli ricchi, e ha una capsula bella. Com'è grande? Sì, già, sì, una capsula grande che posso dire che sia tutto un bicchiere di plastica, un classico bicchiere di plastica, quelli che si compra in confezione, proprio da più girare le labbra, la capsula è così grande, è spessa 4-5 cm. E anche il Tamer ce l'ha così la capsula, ce l'ha grande così. Io mi sa che ne ho qualcuna di quelle buone lo stesso, ne ho qualcuna. Di quelle che me l'hanno rimaste da tanto tempo fa. Una l'ho messa in un microfono, l'ho cambiata, e va bene. Sì, io questa qua un giorno mi metto la provo, non te la provo, magari non serve a niente, però è bella da vedere, non lo so, bisogna provarla già. Allora io ne ho una che è grande così, e c'è la parte in plastica esterna e poi è scatolata dentro, c'è praticamente la vera capsula, proprio quella fatta in ferro. È positivo. Lo so cosa volevo provare io ho un microfono per altare. Ma prego, il microfono per l'altare che si usa per fare, diciamo, la messa all'aperto. Volevo provare quello, quello lì prende, vabbè, l'amplificazione va messa bassa, però quello è assurdo, è meglio del microfono, qualche giorno lo provo. E dove siete? Qualche chiesa? No, l'ho comprato per fare altre cose. Ah, ma tu i microfoni che li metti a disposizione di chi si esibisce o no? Sì, sì, sì, sì, li affitto anche. Se uno mi chiede un microfono in affitto, magari non trova, io ce l'ho e lo affitto. Il microfono viene 150 euro a canale. Ah, ho capito. No, pensavo che li prendessi solo per te, per una tua, diciamo, una tua soddisfazione, dai, per cantare tu. No, io li uso quando faccio service, capito? Io uso in stagione con i microfoni. Ti ripeto, sono quattro microfoni per 12.000 euro, radio microfoni. Ma tu c'hai poi solo la parte tecnica oppure c'hai anche il palco, eccetera? Solo parte tecnica. KK. Andave. È un bel lavoretto anche quello lì, avevo che smontare di notte, mamma mia. Tu pensa che io mi carico i mezzi. Mi carico i mezzi. Guido, scarico, piazzo. Faccio la serata, smonto, carico, torno a casa, guido e torno a casa, faccio tutto. Solo sei Gavrino? No, siamo in quattro, però io faccio tutto, e Leonardo facciamo tutto, infatti siamo qui, io sono qui a Bellurio. Cappa, vabbè, Santa Raggia di Gavrino, oh yeah. Come mai hai scelto questo tipo di lavoro quando ci avevi, nel ricordo, il circolo, eccetera? Non andava bene? Sì, il mio circolo andava benissimo, non bene, andava benissimo, però non era lavoro che faceva per me già. Era un lavoro troppo stressante di testa. Dovevi sopportare troppa gente, anche se ero gente tranquilla, però se ci sono 40 persone hai 40 discorsi aperti, quindi a fine giornata ero distrutto. No, poi non funziona poi secondo le mie esigenze di vita, devo fare, altrimenti sono un uomo distrutto. Un gabbacacco di vasia, lo so, poi in questi circoli ci sono sempre quelli ignoranti, prepotenti, che insistono su una cosa, alzano le voci, mamma mia. Sì, pesanti, sono quelli pesanti, sono quelli che si siedono, si bevono un vino tutta la mattina, che vanno dalle 10 fino all'una, lì con un vino, e te ne mangiano la testa, e alcuni sono perdono anche i clienti. Io una volta ce l'ho venuto con Claudio, te lo ricordo, siamo venuti a farci qualcosa. E diciamo che se c'è un bel ambiente si può anche, vabbè, non era nelle tue aspettative, ma dico, si può anche resistere, ma secondo che ambiente si forma, se vai gente di chi sei ignorante, di chi sa che insiste, fa, per carità, deve divenire di come un... Sì, no, secondo l'ambiente hai è meglio, guarda, perché tu ti compromessi, Io vabbè, ti ripeto, non era il mio caso perché io ho tutta gente tranquilla, erano, però il discorso è sempre quello, devi stare sempre a... devi essere sempre tranquillo con tutti, e poi magari c'è quello stravagante che prende, anche se è una brava persona, però... rompo un po' le scaffa, no, ho detto basta. Anche nel bar mi succede così, capito? Una volta sono stato in questo bar con un amico, ci prendiamo una birra sul bancone e ce la versiamo, c'era questo tipo che stava bevendo, ci ha bevuto tutta la birra, poi a buccio l'andazza non ha basti, io stavo parlando con questo amico, mi giro, cazzo, va via l'andazza mia, stava bevendo dal mio bicchiere. Dove si vende? La mia birra, no, quella lì veramente era la mia, l'ho detto al barista e il barista gli ha detto quella lì era la sua la birra, cioè perché l'hai bevuta tu, avanti la paghi, adesso signore te la rimettiamo, te la paghi, te la lasci stare, io che ti andiamo a aiutare la due, se no mi tocca qui la ciaffa. Sì, no, perché poi io trovo questa gente qua di compromessi, trovo questa gente qua di compromessi. Era cotto, mi era cotto, era ubriaco. Sì, ma quello è anche cosa di attore di mandarli via. Sì, solo lo sai cos'è, che trucchi quelli magari che tu gli dici che non ce n'è da bere, c'è solo acqua, ecco, e si incazzano, ti fanno danno, capito? Si incazzano, se ti fanno danno, io uno sotto casa c'è una pizzeria, no? E ne è sceso questo qua con una bottiglia di mirto, quasi tutta bevuta, anzi forse se l'ha bevuta tutta, grosso, alto, più grosso di me. Un uomo grande, avrà avuto penso una sessantina d'anni, è andato nella pizzeria e la pizzeria stava chiudendo e gli ha detto che voleva una cosa di birra, lui l'ha visto che era così, gli ha detto no qua non ce n'è di birra, noi stiamo chiudendo, questo e quell'altro, ha cominciato a prendere a parolacce la moglie e a dirgliene di tutti i colori, chi se non va visto più l'ha abbinato Barabittorra, è un ragazzino ma è Cubi Barò, l'ha abbinato Barabittorra, gli ha saltato la maglietta e ha detto e questo è solo l'avviso. Poi ti faccio altrettanto addosso a te. E questo ha preso, ha cominciato a prendere a pugni le macchine, le ha tutte ammaccate le macchine che c'erano, ha preso tutti a pugni. C'era questa valigetta in mano, gli è caduta, ha preso questa valigetta, stava passando una macchina, gli recude in manta la macchina, si apre questa valigetta e le sue uscite fotografie di famiglia, di bambini, di cose. Deve essere cacchi d'uno che te l'hanno mandato da gas, sembri a gas, capito? E fatto sta, sono arrivati i carabinieri, cosa sta combinando lì, gli ha detto. Sto combinando che non mi ha voluto dare da bere, questo e quell'altro, boh, ma il carabinieri ha detto devi fare da bravo, guarda come hai fatto le macchine, adesso te le paghi tutte. E il carabiniere non so che cosa stava dicendo, ha preso questo qua, si gira e stava mettendo le mani addosso al carabiniere, il carabiniere ha detto adesso le cose cambiano, ha pigliato il rabuccio di manetti, te la buccio in macchina. Fatto sta che questo qui si metteva a bussare nella macchina dei carabinieri, bum bum bum, e la macchina era ferma, lui stava parlando, il carabiniere con il gestore della pizzeria. E il gestore gli ha detto il carabiniere, guarda che vuole dell'acqua, gli ha portato la bottiglietta d'acqua, prende, gli porta l'acqua, beve l'acqua e poi gliela sputata e faccia il carabiniere, questo mi si è incazzato, basta, adesso basta, non ne posso più, prende un garrigheggio, attacca lampeggiati e ti rubusca. Sì, è perché bisogna fare così con la gente, io lo so quanto l'ho visto io, gente che provava a entrare da me a fare le trattative stravaganti e sono usciti fuori male, già. Però adesso già è finita, perché non è potuto più, veramente più. Ma andare. Sono stravaganti, praticamente mettono a repentaglio gli altri che stanno lavorando e tutto quanto, no, non va bene, dai. Un'altra volta sono entrato in questo bar in via Dipendenza, quel bar che c'è vicino a San Gavino. E sono entrato, questi qui si mettevano, io ero col carrello, ci avevo la birra, dovevo scaricare, ero anche in fretta, ne avevo un bel di birra da scaricare perché c'era la festa di San Gavino il giorno dopo, quindi stavo fornendo tutti i bar, immaginati il travaglio di Gavino. E questo qui si metteva sempre in mezzo alle palle, lo faceva apposta, non vi bassi, aiuto, non vi bassi, e ti ascolto, io sto lavorando lì, il barista ha detto fai una cosa, esci a fura, aiuto, no grazie che era bufurente, no, esci fuori, te l'ha mandato. Ebbè, non scherzi, ma è gente che non c'ha rispetto, è gente di merda quella, non vorrei prendere quella gente lì, non l'ho mai avuto, però hanno provato a entrare, sono rimasti due minuti già, in buio. Uia, si sta bene a casa, un giorno, una settimana, si sta bene. Ma poi ti annui, quando ci stai troppo a casa, io mi ero messo in mente di andare a pescare, perché ho sempre avuto questa passione, di andare a pescare, di fare quello, di fare l'altro, poi mi sono venuto quello che mi è venuto, dovevo andare a Calamari e non ci sono potuto andare. Purtroppo prima la salute e poi si pensa al resto. Adesso andare a Calamari sarà un po' difficile perché col freddo magari ti vengono dolori alle ossa e cose, e Calamaro già lo sai che si pesca al freddo. Sì, sì, vabbè, ma vai da terra, vai dagli scogli. Calamaro al mese di dicembre lo prendi di giorno, lo prendi più da Porto Torres a Tanga Platamona di Le Luce Bianche, puoi iniziare anche alle 14, alle 15 a prendere i calamari, e come fa lui, tanto non li prendi più, e poi. Alla chiesa di Malavicino, Gavì, la giubilato d'ore di una busta io. Nella chiesa di Malavicino, dove ci sono le luci. Sì, dipende dalla giornata, dipende, c'è il calamaro il giorno che vuole luce, il giorno che non vuole, una cellula, il calamaro non lo capirai mai, mai, mai. Sai che il calamaro se ne fuggi una, lo perdi, non ne prendi più. Oh, è come l'orata, se tu prendi l'orata e la perdi non più di più. Il calamaro, quando tu lo prendi, io te lo dico perché il calamare andavo però dalla barca, io andavo fuori, andavo a 4.000 e mezzo, andavo a 3.000, andavo lì alla rimessa, alla scuola di San Gavino, e ne ho preso calamari, usavo tottanare che le dici in Dio, andavo la torre, le punte a prendere, pagavo 15 euro l'una. Però quando lo pigi è forti in gente, se porti qualcuno a prendere calamari, a pescare i calamari, devi essere consapevole che un giorno calamari non ne prendi, è solo messo subito la benzina. Se invece vai da solo, allora inizia a pescare perché li senti quando ti soffrono la totana, quando fanno dare tutte le loro storie, allora lì prendi calamari, quindi calamari li prendi, addirittura uno di cambiare l'armatura ogni 20 minuti. E poi ho specializzato in seppie, seppie ne ho preso tantissime, c'era un punto al passetto che le prendevo tante, e poi l'ho detto a altra gente, sono andati a pescare da soli per farmi la forca, mi hanno lasciato il nero di seppia e il giorno che sono tornato io era tutto pieno di ieri. Sì, no, ma non devi dire niente a nessun modo così, non devi dire tutto, perché da me lo sono che mi metti portami quando mi dicevo, mi trovo a portami, ma li portavo, però non li portavo, non lo andavo io, non ho preso così, e perché poi vanno lì e magari, dai, in fondo io quando mi lo trovavo, mi siedi, non ti potevo portarlo mai una persona, non ho preso così, perché poi non se lo sanno se tenere per sé le cose. È vero. No, a me mi hanno fatto tutta la forca, mi hanno dato l'appuntamento per andare e praticamente aspetta, non veniva più e gli ho detto a mia moglie, scommetti che è andato con qualche altro, ma vai, finisce, no, io vado lo stesso, lo voglio trovare, lo voglio beccare sul fai. Sono andato e l'ho beccato e gli ho detto bravo, complimenti, sei andato bianco e rullo. No, non ho bisogno di dire, io non portavo quasi a nessuno, se quando li portavo tutta un'altra parte. Dice io a prendere i polpi, andiamo a prendere due polpi, e poi magari vedi con un altro gommone, non andando dove l'ho portato io. E vabbè, però, poi domani non l'abbiamo pescato, vabbè, secondo me, per dare un punto di ferro. Ma infatti anche i cacciatori non dicono mai niente, non dicono mai dove va. Non conviene perché poi c'è sempre quello che ti dà la pugnalata. Ci va da solo, ci va in compagnia di altra gente, si sputtana il posto. Come quello lì si è sputtanato perché hanno lasciato il nero di seppia sopra il molo. Hanno visto il nero, cacciano allora via tutti a pescare sì. Beh, poi si sparge la voce. Quindi andiamo a chiorare, lasciamo vedere. 19.05. Presto. Sì, è presto ancora. Aspetta che voglio andare.